Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Dove traslochi? In Romania. Sì, ho trovato un lavoro lì. Sono agronomo, ma qui non sono mai riuscito a fare il mio mestiere. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ad aprire la trasmissione un passaggio del film Banat, storia di espatrio, ma al contrario, dall'Italia alla Romania, alla ricerca di lavoro e felicità. Afferma il regista Adriano Valerio, in un'epoca in cui l'Italia è vista come terra dei miracoli, da migranti che arrivano dall'est e dall'Africa, il film racconta il percorso di due connazionali verso la Romania. C'è un notevole senso di spaesamento nella mia generazione. Banat parla di questa generazione che vede i confini europei come una soglia da attraversare per cercare altre opportunità. Problema quanto mai di attualità, come sappiamo. Anche per questo la frase della settimana è copyright di Papa Francesco. Oggi nel mondo del lavoro, ma in ogni ambiente, è urgente educare e percorrere la strada luminosa e impegnativa dell'onestà, fuggendo le scorciatoie dei favoritismi e delle raccomandazioni. Sotto c'è la corruzione. Così il Papa. Per Francesco le compravendite morali sono indegne dell'uomo e vanno respinte, altrimenti ingenerano una mentalità falsa e nociva che va combattuta, quella dell'illegalità che porta alla corruzione della persona e della società. L'Istat conferma e ribadisce la prevalenza del canale informale nella ricerca di impiego in Italia, proprio quello denunciato dal Papa. Rivolgersi a parenti, amici e conoscenti resta l'azione più diffusa e in crescita nella penisola, 89,2% nel terzo trimestre 2015, più 1,8% in un anno. Seguono l'invio di curriculum e internet. Sempre per l'Istat, un elevato titolo di studio resta comunque un vantaggio sul mercato del lavoro. Il tasso di occupazione nel terzo trimestre 2015 cresce di più tra i laureati, fino al 75% rispetto al 63 dei diplomati. Oggi restate con noi, vi faremo scoprire come l'Africa, continente dalle grandi potenzialità, possa sempre di più rappresentare una destinazione professionale, soprattutto quando in Italia non ci sono, ahimè, le stesse condizioni. Sentiamo. In generale la mia impressione è che spesso i giovani non hanno la possibilità di assumere ruoli di responsabilità, che le relazioni contino più del merito e che sia molto difficile per una donna avere una posizione di responsabilità che permette di conciliare famiglia e carriera. Marta Pagliar, 36 anni, una manager al lavoro per l'operatore mobile Safaricom in Kenya. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Londra resta la meta principe dell'espatrio italiano, a confermarlo la lettera di fine anno del console generale Massimiliano Mazzanti, che scrive: il 2015 si è confermato come un anno di primati per il consolato, oltre 250.000 connazionali iscritti all'AIRE, che continuano a crescere a una media di circa 2.000 nuove iscrizioni al mese. Non è da meno Barcellona. Secondo il quotidiano catalano L'Avanguardia, gli italiani sono la comunità straniera più numerosa nella Ciudad Condal, ben 25.000 nella metropoli catalana. Rappresentano quasi il 10% dei 273.000 residenti stranieri, davanti a pakistani, cinesi, marocchini e francesi. Giovani, lavoro e inattività. Chi sono e quanti sono gli inattivi in Italia? Su questo tema vi segnaliamo l'ultimo libro di Alessandro Rosina, professore di demografia all'Università Cattolica, autore di NEET, Giovani che non studiano né lavorano, edizioni Vita e Pensiero. Lo abbiamo intervistato. Siamo la più grande fabbrica in Europa di NEET, di giovani che non studiano e non lavorano, quindi più bravi a trasformare la potenziale risorsa di crescita di un paese, che sono le nuove generazioni, in un costo sociale. Più di noi ci riescono solo i greci. Noi abbiamo il 26% di giovani tra i 18 e i 29 anni che sono in questa condizione. Come valore assoluto sono 2.400.000 e equivalgono alla decima regione italiana, cioè come se avessimo una regione di media grandezza fatta solo di giovani che non studiano e non lavorano. Questo è un enorme paradosso, già abbiamo meno giovani, già siamo uno dei paesi in cui i giovani più facilmente se ne vanno e meno ne attraiamo e più li sprechiamo. Di questi 750.000 sono completamente scoraggiati. Se non riusciamo a intervenire con politiche adeguate, rischiamo di costituire un futuro per un'intera generazione problematicità, di difficoltà e di povertà. Sono diverse le tipologie, non tutti hanno necessariamente la stessa storia alle spalle, corretto? Ci sono quelli che sono completamente scoraggiati e che quindi nemmeno sanno cosa sta facendo il governo, magari per loro, nemmeno sanno che esiste Garanzia Giovani. Questi giovani hanno bisogno di politiche di prossimità E poi ci sono invece quelli che si sono magari laureati o diplomati da poco, che si scontrano comunque con una difficoltà di matching tra domanda e offerta. Inoltre noi abbiamo poi bisogno di valorizzare il meglio possibile il capitale umano dei giovani nelle aziende italiane, nel sistema produttivo. Interessante iniziativa del Consolato a New York, che da questo mese avvia il progetto Meet the New Italians of New York. L'obiettivo è coinvolgere la nuova generazione di emigrati. Si articolerà in un ciclo di incontri, durante i quali i più significativi esponenti della comunità tricolore incontreranno i giovani residenti nella Grande Mela. Tutte le info su consnewyork.esteri.it. Ricerca: Italia prima tra 40 paesi per numero di richieste di finanziamento in Europa, ma scontiamo una percentuale di successo troppo bassa rispetto al numero di domande e soprattutto la penisola è snobbata dai ricercatori degli altri paesi quale destinazione. A dimostrarlo i soli 24 cervelli approdati qui in 7 anni. La fotografia l'ha scattata lo European Research Council, come riporta il Sole 24 Ore Scuola. Consiglio europeo della ricerca, che porta però anche buone notizie. Sono 31 i giovani ricercatori italiani tra i 291 vincitori del bando Starting Grants. Di questi, 13 svolgeranno i loro progetti all'estero, 18 in laboratori italiani, 4 rientreranno nella penisola proprio grazie alla borsa comunitaria. E per chi volesse fare ricerca in Italia, ma immerso in un contesto europeo, vi ricordiamo che c'è tempo fino al 31 gennaio per candidarsi ai programmi di PhD dello European University Institute di Firenze. Info su eui.eu/phd. La Germania recluta a Milano dal 26 al 28 gennaio selezioni per il progetto The Job of My Life per andare a lavorare in terra tedesca. Tirocini a 800 euro al mese e corsi gratuiti di lingua. Info su afolmet.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nel cuore dell'Africa per raccontarvi come questo continente stia diventando un interessante punto di approdo professionale. Nome: Marta. Cognome: Payar. Età: 36. Città di origine: Verona. Studi: comunicazione in Italia, business in Germania e USA. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2001, tornata nel 2007, ripartita nel 2012. Per andare dove? Germania, Francia, Germania, USA, Gran Bretagna, Kenya. Perché? Scoprire il mondo e inseguire nuove opportunità. Quale lavoro svolge attualmente? Direttore sviluppo prodotto e business transformation in Safaricom. Dove? Nairobi, Kenya. Tornerai? Per l'opportunità giusta. La banda che gnota Sauti Sol con Uchique per introdurre la storia di Marta Payar. Buonasera, sarei felice di raccontare la mia storia e di incoraggiare altri giovani talenti a guardare all'Africa come continente pieno di opportunità interessanti. Così ti presentavi Marta una sera d'autunno di 2 mesi fa a giovanitalenti@radio24.it. Domanda secca, tanto poi torniamo sull'argomento. Che tipo di opportunità? Opportunità di crescita personale e professionale. Ti definisci cittadina del mondo, la tua formazione in qualche modo lo testimonia. Partiamo però dalla laurea. Quale facoltà scegli e perché? Bella domanda. Beh, non avevo assolutamente idea di quale facoltà. Appassionata di filosofia e lettere classiche, volevo studiare filosofia. Ma poi ho seguito i consigli di mia madre e ho studiato qualcosa che mi desse la possibilità di basi di economia e statistica, qualcosa che mi potesse far viaggiare, studiare le lingue e comunicazione. Molto interessante notare come sperimenti sia il progetto Erasmus in Germania sia Leonardo, programmi comunitari che stimolano lo studio e il lavoro in Europa. Allora, ti chiedo, quanto sono ormai imprescindibili queste esperienze secondo te? Quanto sono anche state determinanti per il tuo percorso di carriera successivo? Queste esperienze sono diverse tra loro, ma sono un must che io consiglierei a tutti. Mi hanno aperto la testa e mi hanno fatto apprezzare diverse culture e stili lavorativi. Sono stati assolutamente determinanti nel mio percorso di carriera, proprio perché è stato il mio tutor aziendale, un ex consulente, che mi ha parlato di un settore all'epoca mai sconosciuto, che era la consulenza strategica, in cui poi sono andata a lavorare. Una domanda per chiudere il tuo ciclo di studi: qual è il tuo voto personale all'università italiana? Paragonata all'università straniera, le darei un buon 7. Prepara i giovani dal punto di vista teorico, ma non stimola abbastanza a fare esperienze pratiche, come invece la prassi all'estero. Io ho iniziato a fare uno stage in Germania, perché praticamente ero l'unica dei miei compagni di corso ed amici che ancora non l'aveva fatto. E in Germania era normale per un ventenne aver fatto uno stage retribuito. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Finito lo stage in Deutsche Bank col progetto Leonardo, ho iniziato a lavorare nella più grande azienda di consulenza strategica tedesca, la Roland Berger, su progetti globali. Eri, ci tiene a sottolinearlo, l'unica non madrelingua nell'ufficio di Monaco di Baviera. Allora, come ci sei arrivata e con quale percorso di selezione soprattutto? Sinceramente ci sono arrivata per caso. Il mio tutor aziendale in Deutsche Bank aveva precedentemente lavorato come consulente. E considerando il mio carattere, la qualità del mio lavoro e la mia grande energia e determinazione, mi ha spronato a mandare il mio curriculum alle società di consulenza, alle grandi società di consulenza. Io l'ho mandato un po' per gioco, anche perché all'epoca volevo lavorare nella moda e nel lusso, e invece sono stata invitata per vari colloqui, rigorosamente in tedesco, in formato case study e assessment di gruppo. E devo dire che la consulenza mi ha assolutamente insegnato tanto. E 2 anni dopo ti trasferisci a Francoforte in una boutique della consulenza e ci resti però 1 anno e mezzo, perché nel maggio 2007 torni in Italia, paese in cui non avevo mai lavorato, ammetti candidamente. Allora la prima domanda è personale: perché hai optato per questo, diciamo pure, controesodo? Primo, volevo costruire una carriera internazionale, il che significava saper lavorare con il nord e con il sud dell'Europa, di cui ovviamente l'Italia fa parte. Quindi tornare in Italia era un passaggio logico, un percorso di carriera. Secondo, volevo comunque lavorare per un grande brand internazionale. E Vodafone è un brand molto attraente. E terzo, avevo una gran nostalgia del mio paese e della mia famiglia. E in modo molto ingenuo e romantico, volevo mettere tutte le mie competenze acquisite all'estero al servizio della mia patria. È difficile fare selezione per tornare in Italia, spesso quello viene un po' più lamentato da chi prova a tornare. Per te il percorso di rientro è stato semplice? Io devo dire che l'esperienza all'estero, di studio, di lavoro, di stage e l'esperienza in consulenza mi ha dato un grosso vantaggio. Quindi ho ricevuto varie proposte dall'Italia, però per me non è stato semplice trovare quella giusta, e che anche dal punto di vista economico incontrasse le mie aspettative. In Italia ho avuto da subito l'opportunità di mettermi in gioco, rifletti. Allora, ragionando però più in generale, al di fuori del contesto aziendale, quali sono i pro e i contro del lavorare nella penisola? In generale la mia impressione è che spesso i giovani non hanno la possibilità di assumere ruoli di responsabilità, che le relazioni contino più del merito e che sia molto difficile per una donna avere una posizione di responsabilità che permette di conciliare famiglia e carriera. Inoltre, sembrerà banale, ma io lo voglio sottolineare, la qualità della vita, quindi cibo, clima, cultura e la vicinanza agli affetti più cari, come la famiglia, gli amici di vecchia data, è un innegabile vantaggio del vivere a volare in Italia. Non hai idea di quanto mi manchino la mia famiglia e le mie amicizie. Immagino tuttora, visto che sei ancora all'estero. Nel 2012, dopo una selezione interna, ti sposti a Londra, dove resti un paio d'anni, ed è in questo periodo che entri in contatto con i paesi emergenti. Allora, quale mondo scopri che ti fa guardare oltre la vecchia Europa? Un mondo in divenire, in costante mutamento, più destrutturato, veloce e fluido dell'Europa. Un mondo tutto da costruire, che a mio parere poteva offrire opportunità a tutte le persone brillanti, sveglie e capaci di gestire realtà complessa. Notai anche che in pochi avevano capito le potenzialità del continente, così ti metti alla ricerca di un'opportunità interna all'azienda e a Prodi un paio d'anni fa in Kenya, a Safaricom. Con quali responsabilità? All'inizio strategia e business development e successivamente innovazione, definire, sviluppare e commercializzare prodotti tecnologici per aziende e gestire un processo di business transformation. L'impatto con l'Africa in termini sia professionali sia di vita personale? Decisivo, intenso. All'inizio quasi da capogiro per la velocità con cui le cose succedono nel mondo della tecnologia. Ho imparato a conoscere meglio me stessa, a gestire imprevisti e a capire come affrontare la solitudine, che è normale parte della vita di ogni expat. Allora, da 7 mesi ti occupi di definire e sviluppare prodotti tecnologici per l'azienda, gestisci un tuo team al 100% kenyota e giri il mondo parlando anche a conferenze internazionali. Eserciti quella che potremmo definire una leadership, il tutto a meno di 40 anni. In tutta onestà, in Italia e in Europa sarebbe stato possibile? Non lo so, non credo. Però non fa parte del mio carattere guardarmi indietro e capire quello che sarebbe potuto essere o non essere. Io vivo nel presente, qui, ora e oggi. Affermi che l'Africa subsahariana rappresenta una grande opportunità di crescita personale e professionale. Perché? Perché soprattutto per giovani italiani, secondo te? Perché tu lo punti soprattutto su di noi. Perché secondo me, noi italiani, europei del sud, siamo una via di mezzo tra gli inglesi e i tedeschi, quindi strutturati, in genere disciplinati, estremamente precisi e a volte quasi rigidi, e gli africani. Quindi siamo proprio questa via di mezzo. Le qualità di noi che vengono apprezzate sono l'intelligenza emotiva, le soft skills, la creatività e allo stesso tempo l'etica professionale, struttura mentale e integrità. Ma a un giovane italiano, in quali paesi e in quali settori consiglieresti di puntare in Africa se volesse provare il salto professionale? nei settori delle infrastrutture, dei servizi, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'agricoltura. Comunque tutti i settori sono interessanti e secondo me la scelta del paese dipende anche dal livello personale di rischio e di qualità della vita. Ad esempio tecnologia, ICT, telecomunicazioni, start-up sono molto avanzate in Kenya dove il clima è mite, però altre grandi economie africane sono Nigeria e l'Angola, basate sulle materie prime e il petrolio, dove però la qualità della vita è diversa. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Marta Paiara, 36enne manager per un importante operatore delle telecomunicazioni africano a Nairobi, in Kenya. Marta vi approda a coronamento di una carriera assolutamente internazionale, sia negli studi sia a livello professionale. Ora è una giovane leader immersa in un contesto continentale a elevata potenzialità di crescita. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. In una frase, la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Vedo un paese senza energia, senza voglia di mettersi in gioco e di rischiare. Un paese che secondo me non investe sul suo futuro, ma guarda al suo glorioso passato. E la mia proposta per noi giovani sta nel seguire i propri sogni, senza guardarsi indietro. Convivere con le proprie paure umane e che tutti, me inclusa, hanno, prendersi dei rischi calcolati e, come diceva Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Prendiamo questa frase come lancio per l'intervento del nostro ospite, Mario Cardoni, direttore generale di FederManager. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei e agli allora, ascoltatori. Qual è la sua prima reazione a caldo alla storia di Marta Paiar? Quanto è diventato globale il mondo anche per i manager? Bella storia, una storia che riguarda tanti giovani manager, non sono così pochi. Mi veniva in mente mentre parlava la collega che poi alla fine, insomma, questo non è un paese solo di bamboccioni, ma c'è tanta buona energia nei giovani, e quindi io di queste storie ne conosco diverse, non tantissime, ne vorrei conoscere molte di più. E uno dei temi infatti che sono stati toccati è proprio che questo è un paese che, per la tipo di struttura, diciamo così, produttiva che ha, non è capace di offrire tante grosse opportunità da questo punto di vista. Tra poco ci torniamo, però le chiedo in brevissimo se ci ricorda in breve cos'è FederManager e chi soprattutto rappresentate. FederManager è un'associazione storica che esiste da 70 anni, rappresentiamo circa 180.000 dirigenti in servizio e in pensione del settore industriale, quindi del settore industriale inteso sia come produttore di beni che di servizi, svolge un'attività di rappresentanza in senso naturalmente coerente con la figura del manager, quindi identità, tutele, opportunità e servizi sono gli asset attraverso cui svolge la sua attività. Torniamo al tema che lei ha citato poco fa. Negli ultimi anni, anche causa crisi, abbiamo spesso sentito parlare di fuga dei manager dall'Italia, e non è il caso della storia di oggi in quanto fuga, ma quanto, le chiedo, ancora attuale il problema e quali cause anche strutturali del sistema Italia portano i nostri giovani manager oltre confine? Ma dal mio punto di vista le cause sono prevalentemente due. Una è quella a cui facevo cenno prima, cioè un tessuto produttivo fatto prevalentemente da imprese troppo piccole che quindi riescono difficilmente ad affrontare questo tipo di sfide. Però abbiamo un paese a due velocità, abbiamo invece una parte che è fatta da aziende molto vivaci, molto vive, che hanno saputo anche in questi tempi difficili vincere la sfida della competitività. L'altra invece è sul piano culturale. Noi stiamo assistendo, soprattutto in questi ultimi anni, io dico a una regressione culturale. Non siamo, anche da un punto di vista di comunicazione, non valorizziamo le persone migliori, parliamo di tetti retributivi, cioè io vedo un po' una cultura che si sta diffondendo verso un egualitarismo che non vuol dire dare le opportunità, invece le giuste opportunità a tutti, a prescindere da quelli che sono poi i ceti di provenienza sociale. Ecco, noi dobbiamo puntare più sul merito, sulla valorizzazione delle persone, cioè mettere la persona al centro. E uscire da queste due velocità, avere un'unica velocità rapida in un paese dinamico e capace di affrontare questa nuova globalizzazione. Dove vanno, in quali aree si orientano i giovani manager che lasciano l'Italia, secondo la vostra percezione? Parliamo sicuramente di Germania, Gran Bretagna, USA e forse un po' meno Francia e Spagna. Marta, hai una domanda per Mario Cardoni? Quali consigli darebbe ad una donna dirigente che vuole fare il prossimo passo di carriera e che un domani vorrebbe una famiglia? Tra uno, il tornare in Italia, due, l'optare per l'Europa, o tre, per un paese emergente? A lei la scelta. A me piacerebbe molto che questa donna stesse nel nostro paese e trovasse nel nostro paese il massimo delle sue soddisfazioni. Ritengo che ci si possano essere queste opportunità anche nel nostro paese, però gli consiglierei di fare un'esperienza all'estero, perché un'esperienza all'estero comunque è molto formativa, come la stessa collega raccontava prima, ma è formativa non solo perché uno arricchisce il suo bagaglio di conoscenze, diciamo così, professionali, ma perché entra anche in una dimensione culturale molto diversa da quella che noi siamo abituati a vivere in questo paese, e diciamo arricchendo questo suo bagaglio diventa molto più competitiva anche nel nostro paese, e quindi può in qualche modo aspirare anche a, diciamo, a carriere che sappiamo che per le donne non è solo in Italia, ma in Italia soprattutto, insomma, sono più complicate, sia perché c'è un gap da recuperare, sia perché evidentemente la società non offre quei servizi adeguati che consentono poi di non dover fare delle scelte, diciamo così, divisive per una donna. Grazie a Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager, e domanda di rito per Marta Paiar: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Io gli consiglierei di credere in se stesso e nelle proprie forze, perché tutti, persino i grandi manager che magari non lo ammetteranno mai, si sono trovati in difficoltà e hanno momenti di incertezza. Vi consiglierei di ponderare e analizzare pro e contro delle possibili opzioni, di prendere una decisione poi e seguirla fino in fondo senza mai guardarsi indietro. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: nuova edizione per il programma di inserimento nella Banca Centrale Europea a Francoforte, dedicato ai giovani che hanno appena concluso un master o un PhD. Le aree di provenienza ricercate sono economia, statistica, finanza e anche numerose altre. Scadenza per i CV: 1 febbraio, candidature a sb.europa.eu. Un country manager per DNVGL nel settore energia a Parigi, richiesta la laurea in ingegneria, scadenza per i CV 31 gennaio, info su careers-dnvgl.icims.com. E infine un assistant professor nei settori acqua e ambiente all'interno del Dipartimento di Geologia dell'Università di Ghent, scadenza per i CV 31 gennaio, info su ughent.be. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi il nostro focus è tutto per un magazine online fondato da pochi mesi. Si chiama Il Deutsch Italia e già dal titolo racconta lo scopo del progetto: fare da ponte tra due culture, parlando ovviamente anche dei nuovi emigrati italiani in Germania, come ci spiega Alessandro Brogani, direttore e fondatore del Deutsch Italia. È nato perché mi sono reso conto che a Berlino, tra la comunità italiana, mancava un'espressione che cercasse di integrare appunto la realtà italiana con quella tedesca. Che temi trattate all'interno del Deutsch Italia? All'interno del Deutsch Italia cerchiamo di trattare a 360 gradi tutti i rapporti che ci sono fra Germania e Italia, quindi ciò che piace dell'Italia e ai tedeschi e ciò che piace della Germania agli italiani, senza esclusione di argomenti. Toccate anche il tema della nuova emigrazione professionale? Sì, certo. E come? Beh, lo tocchiamo soprattutto guardando a argomenti di carattere ovviamente economico, e quindi capire qual è, diciamo, il campo in cui maggiormente uno che volesse trasferirsi ad esempio in Germania può andare a cercare, le zone dove questo può essere più utile. Allora raccontiamole, perché è importante anche per chi ci ascolta. Dunque, l'errore che si fa genericamente è quello di pensare alla Germania prevalentemente come Berlino, anche se poi a ben guardare le statistiche Berlino non è certamente la città da andare a cercare volendosi trasferire appunto in Germania. A Berlino si può trovare prevalentemente lavoro ad esempio in una startup di carattere tecnologico. La lingua è fondamentale, questo è un altro errore che si fa, e quindi molti vengono qui pensando che con l'inglese possano trovare una soluzione lavorativa adeguata. In realtà bisogna ricordare che in Germania la situazione lavorativa è esattamente l'opposto che da noi in Italia, cioè le strutture industriali e comunque sia produttive di maggior spessore sono al sud della Germania. Andiamo allora alle zone dove tu consigli trasferirsi in Germania. Ma sicuramente la Baviera e il Baden-Württemberg sono le zone dove maggiormente si può trovare forse con facilità un'occupazione. Vedi ancora aumentare l'immigrazione italiana a Berlino negli ultimi mesi? Decisamente sì, le stime ufficiali degli italiani presenti a Berlino sono circa 25.000 unità,